giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 26 persone indagate, di cui 13 in custodia cautelare, il risultato di una maxi operazione della polizia contro l'immigrazione clandestina. Passori albanesi facevano attraversare a piedi nei boschi il confine croato-sloveno e poi trasportavano i migranti in auto fino a Trieste, documentati episodi di violenza. Il TAR ha avviato l'udienza sui ricorsi presentati da Insieme Liberi, la formazione politica rimasta esclusa dal Consiglio regionale per una manciata di voti alle elezioni di aprile. Sanzioni salate e disposizioni stringenti contro le violazioni al codice della strada, lo prevede il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, una norma che fa discutere. 215 sanitari hanno segnalato un'aggressione nei primi 5 mesi dell'anno, lo rileva la UIL di Udine, un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le collaborazioni tra cooperative ed enti pubblici sono la chiave di volta dello sviluppo delle coop, un movimento che raggruppa oltre 200.000 persone e genera una produzione che vale oltre 1 miliardo. Oggi a Trieste l'assemblea dei soci di Lega Coop FVG. Aiuta a risolvere contenziosi di diversa natura e mette in contatto cittadino e pubblica amministrazione. È il difensore civico regionale, figura ancora poco conosciuta, a rivestirne il ruolo in Friuli Venezia Giulia, e Arrigo De Paoli, già magistrato di Cassazione. Lo abbiamo intervistato. A Trieste, al Castello di San Giusto, stasera arriva la milonga del football di Federico Buffa. Mito, storie, aneddoti dei grandi idoli argentini del calcio in un atto unico che apre la stagione teatrale estiva triestina. Le 12.32, buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio. In apertura la cronaca. La polizia ha arrestato 13 persone ritenute responsabili del reato di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. Una maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, i cui dettagli sono emersi poco fa in una conferenza stampa ancora in corso. I 13 arrestati sono di origine kosovara albanese, 10 dei quali con dimora stabile a Trieste, e indagini sono in corso anche su altre 13 persone della stessa etnia. I poliziotti sono risaliti ai presunti passeur dall'osservazione di passaggi di coppie di autovetture ai valichi di Basovizza e Pese. Gli investigatori sono così risaliti a un'organizzazione complessa che aveva a disposizione automobili e furgoni, a volte presi a noleggio. Secondo quanto ricostruito, i passeur si recavano al confine tra Croazia e Slovenia per far da prima passare a piedi nei boschi i migranti aggirando i controlli. Dalle intercettazioni è emerso come in diversi casi i migranti che non erano disposti a camminare siano stati picchiati e ai bambini sia stato somministrato del sonnifero per evitare che piangessero, richiamando l'attenzione delle guardie di frontiera. Una volta in Slovenia, nella località di Pomian, i migranti venivano fatti salire sui mezzi per arrivare in Italia, un servizio per il quale ogni persona in transito pagava tra i 200 e i 250 euro. E i carabinieri di Gorizia hanno arrestato una cittadina romena, quarantenne, fermata da una pattuglia per un controllo pochi metri dopo aver varcato il valico di San Pietro a Gorizia, mentre si trovava alla guida di un'autovettura presa a noleggio e con targa rumena. All'interno del mezzo i militari hanno trovato 5 cittadini extracomunitari provenienti dal Nepal e verosimilmente diretti verso la Francia, entrati illegalmente nel territorio dello Stato italiano. La donna è stata arrestata e condotta in carcere a Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria esontina. I 5 cittadini extracomunitari invece, al termine degli accertamenti di rito, sono stati affidati a una struttura di accoglienza. Ora la politica. Il TAR si pronuncia oggi sui ricorsi presentati dal Movimento Insieme Liberi, rimasto escluso dall'accesso al Consiglio regionale eletto il 2 e 3 aprile scorsi. La lista aveva ottenuto solo una manciata di voti in meno rispetto alla soglia del 4% dei consensi necessaria per esprimere i propri rappresentanti. Alla prima udienza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia sul ricorso della lista Insieme Liberi, rimasta fuori dal Consiglio regionale per appena 77 voti, tanti quanti sarebbero bastati per raggiungere la soglia di sbarramento del 4%. Il raggruppamento antisistema, che include anche Novax e No Green Pass, ritiene che il 3,98% ottenuto vada arrotondato all'unità decimale, quindi al 4%. I ricorrenti sostengono inoltre che i voti assegnati alla sola candidata presidente vadano estesi anche alla lista. Infine, si fanno notare diverse incongruenze in verbali dei presidenti di sezione. In caso di accoglimento, la lista eleggerebbe due candidati, Ugo Rossi nella circoscrizione di Udine e Marco Bertali a Trieste. Presente all'udienza, oltre a diversi sostenitori, anche Giorgia Tripoli. L'avvocata non sarebbe comunque eletta perché è arrivata terza tra i candidati presidenti, passano solo i primi due, dice la legge elettorale. Secondo le valutazioni di Insieme Liberi, i due seggi sarebbero portati via al resto dell'opposizione, uno a Patto per l'Autonomia, l'altro a Open Sinistra FVG, che rimarrebbe dunque senza rappresentanza. Ci sarebbe poi un rimescolamento di eletti tra varie circoscrizioni che cambierebbe non poco la composizione dell'Aula. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Fanno discutere le novità introdotte dal disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei Ministri e sintetizzato sul sito del Ministero dei Trasporti. Il provvedimento andrà ora discusso, eventualmente modificato e votato in Parlamento. Il governo vuole rendere più sicure le strade e approva il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada. I testi dovranno passare al vaglio del Parlamento non prima di settembre. Prevenzione ma anche repressione per comportamenti come guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Stretta sull'utilizzo del cellulare alla guida a causa del 15% degli incidenti in Italia. Non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma ci sarà la sospensione. Stessa sanzione anche per la circolazione contromano, il sorpasso azzardato ed il mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza dei bambini. I neopatentati non potranno mettersi alla guida dei veicoli di grossa cilindrata prima dei 3 anni dal conseguimento della patente. Monopattini con l'obbligo di casco, targa e assicurazione e garanzie anche per i ciclisti, con la disciplina del sorpasso prevedendo almeno 1,5 metri di distanza nell'effettuare la manovra. A Trieste il campione delle sanzioni parla di quasi 13.800 multe per eccesso di velocità da aprile 2020 22 a marzo di quest'anno. Con il nuovo codice, se approvato, il superamento del limite oltre i 10 km orari farà scattare la sospensione. Sono invece quasi 550 le sanzioni per guida con il cellulare. Walter Milocchi, comandante Polizia Stradale di Trieste. Gli incidenti però non stanno diminuendo, al contrario del decennio precedente, e una delle possibili cause è l'utilizzo del cellulare, perché distrae chiaramente lo sguardo dalla guida e comporta a volte degli incidenti che hanno dell'incredibile, anche uscite autonome, perché si accorgono all'ultimo momento di dover uscire dalla tangenziale, piuttosto che l'investimento in una giornata normale su un rettilineo, sull'attraversamento pedonale. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aggressioni ai sanitari a Udine provincia, oltre 200 tra infermieri, medici, OS e amministrativi hanno segnalato di essere stati aggrediti nei primi 5 mesi di quest'anno, lo segnala la UIL, l'area dell'emergenza, quella in cui più spesso si verificano fatti del genere. 215 sanitari che da gennaio a maggio hanno chiamato il centro di ascolto della UIL FPL per segnalare un'aggressione, una media di 40 segnalazioni al mese con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rileva con preoccupazione il segretario regionale del sindacato Stefano Bressan. Dai dati raccolti dai 5 numeri di telefono dedicati attivi negli sportelli UIL, Udine risulta in testa per numero di segnalazioni, 72, seguono Trieste 52, Pordenone 44 e Gorizia 41, delle quali 28 dall'ospedale di Monfalcone. A segnalare sono per il 40% infermieri, per il 30% OS, per il 20% medici e per il 5% sia amministrativi che tecnici. La gran parte delle denunce arriva dall'area emergenza, dove si segnalano le maggiori criticità nelle attese prima delle visite in pronto soccorso, con gli infermieri insultati anche quando aiutano il paziente ad arrivarci, ma anche dagli sportelli per il pubblico, dai CSM e dalle mediche, dove ad aggredire sono spesso gli accompagnatori dei pazienti. Si tratta per lo più di aggressioni verbali. Nel 20% dei casi si passa al contatto fisico, spinte, strattoni e anche sputi, spiega ancora Bressan, precisando che nel 70% dei casi le richieste di aiuto arrivano da operatrici donne. Chi segnala chiede supporto psicologico o consigli su come comportarsi. Quasi nessuno passa alle vie legali, anche per paura di controdenunce. Altri circa 150 casi sono intanto emersi a livello regionale dal sondaggio avviato negli ultimi 3 mesi sempre dalla UIL e ancora in corso tra gli operatori sanitari che rispondono in forma anonima. 109 sono invece gli episodi registrati dalle 3 aziende sanitarie della regione dall'inizio dell'anno, una situazione che nei prossimi mesi estivi, vista la carenza di personale, rischia di peggiorare, osserva ancora il sindacato, che sollecita misure a tutela dei sanitari e per il quale essenziale resta comunque decongestionare i pronto soccorso. Udine, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo all'economia. Nel 2022 il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare la migliore crescita dell'export del Triveneto, con un aumento del 17,9% sul 2021, pari a un incremento di oltre 490 milioni di euro di valore. È quanto emerge da un rapporto di Intesa San Paolo. Dietro al Friuli Venezia Giulia il Veneto con un più 14,2% e poi il Trentino Alto Adige a più 6,8%. Nel 2022 in tutto i distretti del Triveneto hanno superato i livelli di export registrati nel pre-pandemia e nello specifico il Friuli Venezia Giulia ha migliorato i dati del 36,7%, il Veneto del 20,7% e il Trentino Alto Adige del 14,5%. Assemblea di Lega Coop FVG stamattina a Trieste. L'associazione raggruppa oltre 200.000 soci a fronte di un valore di produzione che supera il miliardo di euro. Strategia di sviluppo, le collaborazioni tra cooperative ed enti pubblici. L'alleanza pubblico-privato è al centro dell'assemblea di Lega Coop FVG che si è tenuta al Teatro Mira di Trieste stamane con i rappresentanti delle oltre 200 cooperative associate. La cooperativa supporta il pubblico quando però è anche il pubblico a riconoscere il valore di ciò che il mondo cooperativo porta. A dirlo bene la presidente regionale di Lega Coop FVG Michela Vogrig, che fa capire come troppo spesso le amministrazioni nella gara dei prezzi al ribasso strozzino di fatto la partecipazione di cooperative che lavorino seriamente. C'è infatti un problema di stipendio in Italia, il mondo della cooperazione non ne è esente. Rispettiamo i contratti collettivi nazionali, spiega la Presidente, ma è vero che stiamo anche lavorando affinché vengano migliorati e alzati. E poi chiediamo un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Uno su tutti ci viene proposto il caso della prima comunità energetica in forma cooperativa, partecipazione pubblica d'Italia, che arriva da un piccolo comune del Friuli. Grazie ad una rivoluzionaria sentenza della Corte dei Conti, il comune di Fontana Fredda e la società cooperativa Benefit Part Energy di Udine hanno dato il via alla nascita di una comunità energetica rinnovabile fondata sul territorio. Le comunità energetiche, ha spiegato Michela Vogrig, sono un'opportunità che dobbiamo saper cogliere per contrastare la povertà energetica a favore di famiglie e imprese, ma anche perché alimentano una cultura della comunità che promuove collaborazione e sostenibilità, e questo mi sembra un ottimo investimento per il futuro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La finanziaria regionale Friuli ha consolidato la propria presenza in SVG SPA, incrementando la propria partecipazione nell'azienda di ricerche demoscopiche. Friuli è passata dal 14,4% al 26% del capitale. Il restante 74% rimane sotto il controllo degli imprenditori Maria Cristina Salami, amministratore delegato, e Adrio Maria De Carolis, presidente esecutivo. È stata data fiducia al progetto di sviluppo di SVG che mira una crescita delle partnership a livello internazionale e uno sviluppo delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa. Rinnovato il contratto integrativo alla Bofrost di San Vito al Tagliamento, risorse per 6 milioni e 3 per il welfare aziendale per 1.800 dipendenti in tutta Italia. 6 milioni di euro in premi di risultato, 3 milioni in welfare aziendale e un nuovo impegno per le politiche di genere. Bofrost Italia, azienda specializzata nella vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi, con sede a San Vito al Tagliamento, in accordo con le sigle sindacali ha rinnovato fino al 2027 il contratto integrativo al contratto collettivo nazionale per 1.800 dipendenti che svolgono attività commerciale, occupandosi della vendita a domicilio e telefonica nelle 60 filiali in Italia. L'amministratore delegato di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin. Innanzitutto, Bofrost è l'unica azienda della vendita diretta che si avvale di dipendenti. Il contratto che è stato appena firmato integrativo è stato fatto a quattro mani con le organizzazioni sindacali e in questo pacchetto integrativo abbiamo stanziato circa 6 milioni di euro l'anno, a cui vanno aggiungerci 3 milioni legati al mondo del welfare, che vanno dai buoni pasto a tutte quelle supporti per la spesa di istruzione, spese mediche, che possono integrare appunto il stare bene in un'azienda. E per favorire la conciliazione vita-lavoro e attrarre più personale femminile, l'azienda ha anche introdotto la possibilità del part-time. Abbiamo inserito anche delle norme legate alla conciliazione casa-lavoro e per la prima volta abbiamo aperto la possibilità del part-time, cosa molto importante soprattutto per essere in grado di attrarre il personale femminile, perché con un contratto part-time pensiamo sia molto più attrattivo anche appunto per le donne in azienda. San Vito al Tagliamento, Natascia Cargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.45, passiamo al meteo, il cielo è nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, il mare mosso con temperatura di 22 gradi, a Udine e Pordenone 24, a Gorizia 23 gradi, in area montana Tolmezzo 20, Forni di Sopra 17, Tarvisio e Sappata 15 gradi e mezzo, Piancavallo 12, in quota sul Monte Zoncolana 10 gradi e su Monte Lussari 8. Sulla costa Legnano 24 gradi e a Grado 23. La temperatura del mare in entrambe le località è di 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA FVG, il cielo sarà variabile nelle prossime ore, sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, nel pomeriggio sulla zona montana saranno possibili delle brevi e deboli piogge, domani il cielo sarà in prevalenza sereno, su pianura e costa poco nuvoloso sulla zona montana, soffieranno venti a regime di brezza. Torniamo alla cronaca, i carabinieri di Udine in una serie di controlli hanno riscontrato inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'omessa sorveglianza sanitaria e la presenza di manodopera in nero. Irregolarità sono emerse anche sui presidi antincendio e il primo soccorso. Sono state dunque sospese le attività di due pubblici esercizi e due attività commerciali. In tutto sono state inflitte sanzioni per oltre 90.000 euro in un bar e una sala slot di Lignano Sabbiadoro, in un bar di Tavagnacco, un emporio di Pozzolo del Friuli, in un distributore con autolavaggio di Basiliano e in una pizzeria di Tarcento. A Mossa, nei pressi della chiesetta di Prevala, lunedì scorso all'alba un uomo è stato aggredito da un cinghiale mentre si trovava su una radura con il proprio cane. Fortunatamente non ha subito ferite gravi, mentre il cane, un pastore belga, è stato medicato con 7 punti di sutura. Ne dà notizia Primorsky Dnevnik di oggi, pubblicando la testimonianza dell'aggredito, Pasquale Apuzzo, residente a Mossa, che è riuscito a sottrarsi all'attacco del cinghiale rifugiandosi nella sua automobile. Secondo il comandante della stazione forestale di Gorizia, Gianluca Mizzolini, si è trattato di un attacco da parte di un esemplare femmina intenta a difendere i propri cuccioli. È un ponte tra cittadino e pubblica amministrazione e agisce a tutela dei cittadini. Stiamo parlando del difensore civico regionale, una figura forse poco conosciuta, ma che in modo del tutto gratuito aiuta a risolvere i contenziosi di diversa natura. Il difensore civico per il Friuli Venezia Giulia, Arrigo De Paoli, era ospite oggi nella nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Regione. Lo abbiamo intervistato. Le lunghe attese per i passaporti o i permessi di soggiorno, risposte degli uffici che non arrivano, licenze edilizie, pensioni, itinerari dei trasporti pubblici inadeguati, problemi con le prestazioni sanitarie o i rimborsi dei ticket. Ci pensa il difensore civico regionale, una figura forse poco conosciuta, ma che in modo totalmente gratuito aiuta a risolvere i contenziosi tra il cittadino e la pubblica amministrazione. 250 i casi gestiti in un anno, diversi gli ambiti di intervento, tra cui la sanità. Laddove l'amministrazione non è in grado di rispettare i tempi per esami diagnostici o visite specialistiche, e allora è prevista proprio la possibilità del privato di rivolgersi a strutture private e poi di essere rimborsate, detratto comunque il ticket, quello è ovvio. E per quanto riguarda la sanità c'è anche il problema delle dimissioni dalle RSA oppure dalle cure gratuite o che non sono ritenute gratuite dall'amministrazione, qualche volta sì, qualche volta no. Il difensore civico si rapporta con le questure, l'INPS, motorizzazione, con tutti gli enti competenti per le materie che interessano il cittadino. L'ambiente, perché mi sono state segnalate alcune volte, si è temuto di rifiuti tossici, si è temuto poi di alterazione della montagna per la realizzazione di strade che non tutti ritenevano giuste, e quindi sotto questo profilo insomma c'è un'ampia gamma di materie. Il difensore civico non è un avvocato, anche se in realtà la sua attività alleggerisce il lavoro dei tribunali. Io non sono tenuto ovviamente a dare pareri giuridici, però posso dire serenamente lasciate perdere in certi casi, e se lo dico si fidano, e quindi c'è una specie di mediazione nei confronti del TAR soprattutto, perché è il TAR che è competente per le controversie fra cittadino e amministrazione pubblica. Per raggiungere il difensore civico è sufficiente collegarsi al sito della regione e inviare la propria segnalazione per mail. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, sono ben 11 le medaglie guadagnate dalle piccole stelline dell'ASU, l'associazione sportiva udinese, in occasione del campionato nazionale di ginnastica ritmica organizzato dall'Associazione Italiana Cultura e Sport a Biella. Sono stati 5 giorni intensi di gare che hanno visto partecipare 43 società da tutta Italia e le piccole ginnaste bianconere sono riuscite a ottenere con i loro esercizi individuali e di squadra ottimi risultati. Passiamo agli spettacoli. A Trieste il Castello di San Giusto diventa il Teatro Estivo Cittadino. Oggi il primo appuntamento alle 21 con la Milonga del Football, spettacolo di Federico Buffa che racconterà le storie italo-argentine di Cesarini, Sivori, Maradona e Messi. Sentiamo la presentazione dello spettacolo da parte dello stesso Buffa. Un viaggio nel Novecento dell'Argentina. L'Argentina è molto vicina all'Italia da tanti punti di vista. Il loro principale scrittore Borges diceva che gli argentini sono degli italiani che parlano in spagnolo e vorrebbero fare i francesi, che è proprio Cassazione. È proprio vicina a noi l'Argentina da tanti punti di vista. E la storia del Novecento argentino ha bisogno di traini, e i traini sono tre calciatori che sono collegati l'uno con l'altro. Renato Cesarini, nato nel 1905 in Italia, ma partito insieme alla sua famiglia per l'Argentina nel 1906, è il titolare della famosa zona Cesarini per via di un famoso gol che segnò con la nazionale italiana nel 1931, è lui che scopre il numero due della storia, il secondo traino, Omar Sivori. Omar Sivori, oltre a essere il motivo per cui tutti gli italiani che si chiamano Omar lo devono a lui, il giorno in cui Diego Armando Maradona nel 1978 venne escluso dalla nazionale che giocava il mondiale in Argentina, giocherà poi l'82, 86, 90 e 94, andò a consolare Diego spiegandogli che non doveva rattristarsi perché lui aveva dentro di sé la verità più profonda del football. Sono tre personaggi che hanno tutti a che fare con l'Italia, non solo perché ci hanno giocato, fanno 10 scudetti in 3, ma sono Cesarini tutto italiano, Sivori tutto italiano, nato in Argentina e abruzzese e ligure, e Diego Armando Maradona è per metà indio guaraní, ma per metà dalla parte di madre anche lui italiano. E quindi un Novecento argentino raccontato tramite italo-argentini che hanno fatto la differenza su tutti e due i lati del mondo. Altri appuntamenti, libri. Fabio De Nitto presenterà il suo volume su due fronti opposti, una storia triestina a Trieste e all'antico Caffè San Marco alle 18, tra le pagine le vicende della Grande Guerra e la riscoperta dell'amicizia. Si intitola Veni Vidi Friuli in bici, la guida cicloturistica scritta da Daniele Emanuele Vidi alla scoperta del territorio friulano con 20 itinerari che sarà presentata a Tavagnacco al Giardino del Refosco lungo la ciclabile delle Rogge alle 18.30. Il diario di viaggio del fotografo Eurorotelli intitolato New York Paul Auster and Me sarà presentato dall'autore a Fiume Veneto allo spazio Arte Eurum in Viale della Repubblica alle 20.30. Per la musica la soprano Claudia Maviglia e il pianista Alberto Livo si esibiranno per la serata Aria al Castello in arie di Puccini, Bizet e altri grandi maestri. Appuntamento a Trieste al Castello di Miramare alle 21. A Triskel il nuovo progetto di musica sperimentale di Alice Porro con il gruppo Gig Robots che proporrà il loro Electric Celtic a Trieste al Boschetto del Ferdinandeo alle 21. Alle 22 le cornamuse medievali del gruppo tedesco Fabula. A chiudere la serata lo spettacolo di sfere e fuoco giocoleria di Vassago. Per gli spettacoli teatro per bambini al Teatro Verdi di Gorizia con Esmeralda la farfalla del bosco a Palazzo De Grazia alle 20.45. E il gatto con gli stivali di Roberto Marafante per la regia di Emanuela Latorre sarà rappresentato a Porcia in Piazza Remigi alle 21. La rassegna Art Alort sarà inaugurata dal monologo comico di e con Caterina Tomasulo, Catine Show, a Udine al Giangio Garden di Parco Brun in via Levatta alle 21. Sono le 12.54, si chiude questa edizione del giornale radio regionale redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre e andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Vassia Krismancic. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.